Paura in Giappone a Fukushima, l'incidente nucleare di livello massimo, ma il premier dice la situazione si sta stabilizzando. Processo breve, oggi scontro finale alla Camera, anche Gianni Letta pronostica una giornata difficile e una settimana incandescente. Immigrazione quasi svuotata a Lampedusa, Alfano ieri, brutta pagina dell'Europa, Maroni punteremo sul controllo delle acque. Fiat, un altro passo nell'accordo con Chrysler, ora il Lingotto controlla il 30%. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque, in apertura torniamo in Giappone, dove a poco più di un mese dal terremoto e dallo tsunami e mentre nuove scosse di terremoto di assestamento scuotono il terreno, la notizia arriva, una notizia che non avremmo naturalmente voluto sentire: l'incidente nucleare avvenuto a Fukushima è di livello massimo, lo ha detto oggi l'Agenzia per la sicurezza nucleare e industriale del Giappone, che ha dunque alzato il livello di gravità da 5 a 7. Il premier giapponese Naoto Kan invece intervenuto dicendo che la situazione nonostante tutto si sta però stabilizzando. E proprio da Fukushima il racconto dell'inviato del Sole 24 Ore. Da oggi Fukushima è ufficialmente associata a Chernobyl. Il governo giapponese ha infatti alzato da 5 a 7 la valutazione della gravità dell'incidente nucleare alla centrale di Fukushima Daiichi, portandola proprio al livello della crisi nucleare in Ucraina del 1986, la peggiore mai registrata nella storia. Il governo giapponese ha anche deciso di ampliare la zona di evacuazione di circa 20 km intorno alla centrale, estendendola non a raggiera ma a macchia d'olio a seconda delle rilevazioni radioattive riscontrate in singole località. E la stessa società di gestione della centrale, la TEPCO, ha avvertito che in ultima analisi l'ammontare delle fuoriuscite radioattive potrebbe eccedere quelle di Chernobyl. Intanto, dopo il forte terremoto di ieri sera, altre intense scosse sismiche tra 6 e 4 e 5 e 6 di magnitudo stamattina hanno colpito la regione e si sono avvertite chiaramente anche a Tokyo. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Fukushima. Dunque, se inizialmente l'incidente a Fukushima era stato paragonato per gravità a quello a Three Mile Island negli Stati Uniti, adesso il confronto è con l'incidente, il più grave della storia, avvenuto a Chernobyl nel 1986. Sentiamo. La prima, lo sappiamo, fu Three Mile Island negli Stati Uniti, in Pennsylvania. Fu qui che alle 4 di mercoledì 28 marzo 1979 un guasto nell'impianto di raffreddamento e le carenze dei sistemi di controllo provocarono in una catena di eventi consecutivi la fusione di un terzo del nocciolo. L'unità 2 fu chiusa ed è ancora oggi sotto monitoraggio in attesa di un prossimo smantellamento. L'incidente è stato classificato a un livello di gravità 5 sulla scala di 7. Le conseguenze, almeno ufficialmente, sono state limitate. Nessuna vittima diretta, si è detto. Diverse fonti tuttavia denunciano un aumento della mortalità per cancro e uno studio pubblicato sull'American Journal of Health ha individuato un picco di morti per cancro in un'area di 6 km dalla centrale. Chernobyl comunque è stata un'altra cosa. L'incidente, classificato di livello 7, il massimo, si verificò il 26 aprile 1986 in seguito a gravi errori del personale, irresponsabilità dei dirigenti e vizi di progettazione. Durante l'esecuzione di un test, le barre di uranio del nocciolo del reattore nucleare si surriscaldarono per davvero, fino alla fusione del nocciolo del reattore 4, con due conseguenti esplosioni non nucleari, ma che fecero saltare la copertura e disperdere nell'atmosfera grandi quantità di vapore contenente particelle radioattive. La nube si spostò sull'Europa occidentale, la falla fu tappata solo il 10 maggio. Le conseguenze sulla popolazione locale durano ancora. Il rapporto ufficiale ONU ha indicato 65 morti accertati, altri 4.000 presunti per tumori e leucemie su un arco di 80 anni, ma altre stime elevano a 30-60.000 le morti indirette del disastro nucleare ucraino. Si tratta di stime, valutazioni difficili ora a distanza di anni. Per questo, sulla vicenda di Fukushima occorre essere molto prudenti e evitare tanto i facili allarmismi quanto le facili rassicurazioni. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo del nodo immigrazione dopo la rottura tra l'Italia e l'Europa sulla gestione degli immigrati nordafricani. Nuovo intervento oggi del ministro dell'Interno Maroni, che ha confermato la delusione per il vertice di ieri a Lussemburgo, nel quale non è passata la linea dell'Italia di ricorrere allo smistamento in diversi paesi degli immigrati nordafricani. Oggi probabilmente toccherà al ministro degli Esteri Frattini a Lussemburgo, un nuovo vertice, a gestire gli strascichi di questa polemica in Europa, ma facciamo il punto sulla situazione con Andrea Viali. Buongiorno. Sì, Alessio, buongiorno. Il ministro dell'Interno Maroni è tornato a parlare della questione da Modena. Ha detto, mi pare che si sia persa un'occasione sul piano della solidarietà europea. Il responsabile del Viminale si è poi augurato che un aiuto all'Italia in tema di migrazione possa ora arrivare dalla visita a Tunisi in programma oggi del presidente della Commissione europea Barroso. Ieri è stata scritta una brutta pagina dell'Unione europea, ha commentato stamattina anche un altro ministro, il ministro della giustizia Alfano, che si trova anche lui a Lussemburgo, mentre come prevedibile l'isolamento del nostro governo in Europa, evidenziato nelle ultime ore, sta alimentando le critiche dell'opposizione. Secondo il segretario del PD Bersani, se siamo arrivati a questo punto è perché sull'immigrazione finora si è fatto soltanto propaganda. Te la linea, Alessio. Grazie Andrea. E intanto proseguono le operazioni a Lampedusa tra arrivi e nuovi sbarchi, dunque, e partenze verso altre destinazioni degli immigrati. Stasera sull'isola dovrebbero restare solo 200 immigrati. Sentiamo. A Licata sono arrivati poco dopo l'una di questa notte. Il barcone con il motore in avaria era stato avvistato nel canale di Sicilia. A bordo c'erano 250 persone circa, eritrei e nigeriani per la maggior parte, partiti dalla Libia almeno un paio di giorni fa. Altri 116 disperati erano partiti dalla Libia, in gran parte provenienti dal Chad e dalla Somalia. Ma il loro viaggio si è concluso a Malta. Quando sono stati soccorsi si trovavano in acque di competenza della Valletta e secondo l'isola l'Italia si sarebbe rifiutata di inviare proprie moto vedette nonostante una richiesta di assistenza da parte della Marina maltese. Per una di loro, una ragazza di 24 anni, il viaggio è finito ancor prima, morta durante la traversata. A Lampedusa nessuno sbarco nella notte, le condizioni del mare e l'accordo con la Tunisia hanno fatto la loro parte. Questa mattina sulla nave Excelsior sono saliti in 700, andranno a Catania e poi nei centri di identificazione sparsi sulla penisola, da cui saranno rimpatriati. Dopo la rivolta di ieri la situazione è calma, per oggi sono previsti anche due voli per riportare a Tunisi 60 migranti. L'accordo con la Tunisia prevede infatti un numero massimo di 60 rimpatri al giorno, ciascuno accompagnato da due agenti delle forze dell'ordine. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dal vertice dei ministri degli esteri di Lussemburgo, di cui parlavamo poco fa, è intervenuto a proposito della Libia il ministro degli esteri inglese William Hague, che ha detto la NATO deve intensificare i suoi sforzi e poi ha detto non ci può essere un futuro in Libia senza l'uscita di scena di Gheddafi. Della Libia parleremo tra poco, adesso invece veniamo in Italia, parliamo di giustizia, perché oggi ci sarà una nuova giornata di fuoco alla Camera, perché a partire dal 3 di pomeriggio si va avanti con la votazione del processo breve, un tema incandescente, l'ha ammesso oggi anche il sottosegretario Gianni Letta, solitamente loquace. Elisabetta Fiorito, buongiorno, che succede? Sì, buongiorno, riflettori puntati qui alla Camera per le 15, quando inizieranno le votazioni sul processo breve. La maggioranza teme imboscate dai nuovi sostenitori del governo, che non sono stati beneficiati di posti o poltroni, ma questa mattina Francesco Pionati garantisce che il gruppo dei responsabili voterà compatto la riforma, perché fa bene al Paese e ci avvicina agli standard europei. Nel frattempo il capogruppo PDL Fabrizio Cicchitto invia una lettera a tutti i suoi colleghi per essere presenti in aula, e nell'aula di Montecitorio ci saranno anche i ministri come la scorsa settimana. A difendere il provvedimento anche quello della giustizia Angelino Alfano, per il quale la prescrizione breve incide in termini solo molto tenui sul versante degli incensurati. Per quanto riguarda l'opposizione, per Alfano fa un uso legittimo dell'ostruzionismo, che però ha poco a che fare con il merito. Ma per l'esponente PD Roberto Giachetti, oggi in aula a Montecitorio, per la maggioranza sarà il Vietnam, e pessimista, come avete detto voi, anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Per il momento qui da Montecitorio è tutto per studio. Grazie Elisabetta, andiamo avanti con le altre notizie. Non spetta a Confindustria fare valutazioni di questo tipo, è quanto ha detto oggi la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia in merito alla richiesta avanzata agli industriali dal segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani perché facciano un passo in più per rimuovere l'ostacolo Berlusconi. Marcegaglia ha parlato a margine dell'inaugurazione del Salone del Mobile alla Fiera di Milano. Sentiamola al microfono di Maria Luisa Pezzali. Assolutamente non spetta a Confindustria fare valutazioni di questo tipo. Come ho già detto ieri, il nostro compito è richiamare sui temi della crescita, della competitività. Tra l'altro ci tengo a dire che quando noi diciamo che siamo soli non è che chiediamo aiuti dallo Stato, tutt'altro, noi ci siamo schierati a favore invece di una minore Stato, di una minore presenza dello Stato in economia, chiediamo solo che ci siano scelte sul fisco, sulla burocrazia, sulla ricerca e innovazione, che sono poi le cose che ci permettono di essere più produttivi, in una logica di lavorare tutti per la crescita. Questo è l'intervento di Emma Marcegaglia a margine del Salone del Mobile, dell'apertura del Salone del Mobile alla Fiera di Milano, uno degli eventi più importanti per il design italiano, guardando all'estero. Allora andiamo e vediamo quali sono le novità. Fabio Pisano, buongiorno. Sì Alessio, buongiorno. C'è atmosfera di festa quest'oggi qui in fiera per l'apertura del Salone Internazionale del Mobile, un'atmosfera di festa giustificata anche dal fatto che il Salone spegne quest'anno le 50 candeline, una cifra tonda che insomma non fa che confermare l'importanza dell'evento, che per una settimana mette Milano al centro dell'Europa e del mondo anziché delle polemiche, anche se abbiamo già sentito assieme le parole di Emma Marcegaglia, che era presente all'inaugurazione insieme al sindaco Letizia Moratti. Ma noi siamo qua insomma per parlare di arredi, design, innovazione, gusto, creatività. Sono queste le parole chiave di una kermesse che attirerà nel polo di Ropero, secondo quanto previsto dagli organizzatori, almeno 300.000 persone in una settimana tra addetti ai lavori, stampa e pubblico, pubblico che avrà accesso solo dalla giornata di domenica ed è previsto un bagno di folla. L'importanza del salone, quasi 2.800 gli espositori per una superficie che supera i 210.000 metri quadrati, naturalmente però anche economica per un settore che sembra confermare dei progressi, in particolare per quel che riguarda l'esportazione, guarda con curiosità, si attende insomma segnali analoghi anche dalla domanda interna. Per ora è tutto, vedremo come si evolve naturalmente questa lunga settimana del Salone. A voi la linea. Grazie Fabio Pisano dal Salone del Mobile di Milano. Adesso invece parliamo di sport, cominciamo con il calcio, anzi parliamo di calcio. Dario Ceccarelli è qua con me, parliamo di questa rottura clamorosa che sembra profilarsi tra il Milan e Ibrahimovic, e parleremo tra poco anche di Champions, perché stasera tornano i ritorni dei quarti di finale. Sì, come dicevi tu Alessio, parlavi di rottura e parliamo di Ibrahimovic. Adesso parlare di rottura forse è un pochettino prematuro, però ecco, ci sono delle avvisaglie, così, dei sentimenti che piuttosto ostili a Ibrahimovic nel Milan, perché dopo la nuovo stop di 3 giornate di squalifica per aver mandato a quel paese un guardialini a Firenze, nel Milan insomma ci sono delle voci di malumori. A dare il là è stato naturalmente Berlusconi, che sull'episodio di Ibra ha detto: guardandosi allo specchio si sentirà in colpa. Secondo alcuni cronisti Berlusconi avrebbe anche detto: forse ho buttato via i soldi con Ibrahimovic. Qui naturalmente, vero o false che siano queste affermazioni, con Berlusconi già cambia spesso anche nella politica, immaginiamoci nel calcio, però indicano queste frasi uno stato d'animo, e cioè che da quando il Milan è diventato squadra, cioè non è più come la prima parte del campionato che era un po' dipendente da Ibrahimovic, così sembra che quasi più il Milan diventa squadra più Ibrahimovic perde importanza e soprattutto si innervosisca per questo fatto. Cioè probabilmente Ibrahimovic ha bisogno di squadre che dipendano da lui. Poi mettiamoci anche Pato, che è diventato quello che è diventato in questo momento nel cuore dei tifosi rossoneri, e poi aggiungiamoci che 11 giocatori del Napoli non prendono quanto incassa Ibrahimovic, 12 milioni di euro, e tutto questo insomma è un campione Ibrahimovic che di fronte alle grandi prove, spesso anche nei campionati europei, insomma è venuto a mancare. Vedremo come andrà a finire. Invece parliamo di Champions, domani tocca all'Inter, però stasera c'è un altro ex rosso-nero impegnato. Sì, stasera c'è Manchester-Chelsea e quindi dobbiamo forza pensare a Carletto Ancelotti, perché stasera insomma si gioca un po' tutto, perché all'andata ha perso 1-0. Il problema è che Ibrahimovic non vuole che assolutamente che si esca dalla Champions, e quindi Abramovic e quindi o il Chelsea batte Ferguson all'Old Trafford oppure l'avventura di Ancelotti si pare che terminerebbe. Mentre l'altra grande partita, ma quella che ci interessa è domani, è l'Inter che dopo il 5-2 subito a San Siro dalle Schalke 4 tenta questa impresa impossibile. Sentiamo Moratti a questo proposito. Ma no, ma qui è una questione proprio di essere concentrati, di tentare una cosa che, ripeto, è impossibile di per sé, ma proprio questa impossibilità la rende molto affascinante come sfida. Insomma. Tutti li vedo molto carichi, poi insomma, sappiamo che sono cose molto difficili, però insomma, questo, ripeto, il fascino di questa partita è proprio l'impossibilità. Sì, il fascino è proprio nell'impossibilità, perché rimontare, cioè tre gol e poi vincere 4-0 è una cosa quasi impossibile. Credo che nella Champions non sia mai successo. Comunque è il bello, il sugo di questa partita, che ovviamente l'Inter non ha nulla da perdere, se non appunto l'umiliazione della degione di quello che è successo nella partita d'andata. 13:18 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato del Giappone. A Fukushima l'incidente nucleare è stato catalogato di livello massimo. Il premier giapponese però rassicura, la situazione si sta stabilizzando. Abbiamo parlato anche della giustizia, perché oggi sarà giornata di fuoco alla Camera, riprendono le votazioni per il processo breve. Il pronostico di Gianni Letta: sarà una giornata difficile. Nodo immigrazione. Alfano: ieri una brutta pagina per l'Europa. Il ministro degli interni Maroni ha detto: punteremo sul controllo delle acque. Adesso tutte le altre notizie. A cominciare dalla situazione in Libia, dove mentre i ribelli hanno rigettato la proposta di mediazione dell'Unione Africana, questo ieri, proseguono gli scontri molto intensi anche a Misurata, e ci sarebbero manovre da parte del regime per aprire forse a delle riforme, chissà, magari per mediare dall'interno la situazione. Andiamo con il corrispondente Cristiano Tinazzi, buongiorno. Sì, buongiorno. Qual è la cronaca in queste ore dalla Libia? Ma la cronaca è quella ormai di tutti i giorni: si combatte sul terreno mentre si cerca a livello diplomatico di avviare delle trattative che però fino a questo momento non hanno avuto soluzioni positive. La missione dell'Unione Africana ha trovato il muro da parte ribelle, mentre invece ormai da parte delle forze governative, dal governo di Tripoli, si sta cercando di avviare una mediazione. Una mediazione che però non prevede l'allontanamento di Gheddafi dalla Libia. Questa è una scelta che non si può mettere sul piatto da parte di Tripoli. E per quanto riguarda invece le manovre del regime di cui si parla, cioè la possibilità che Gheddafi voglia in qualche modo, forse a sorpresa, aprire delle riforme per tentare una mediazione dall'interno, Cristiano? Sì, questa era questa Costituzione che è stata presentata qualche giorno fa proprio qui a Tripoli. È una bozza di una Costituzione che sarebbe, secondo appunto il governo, si sarebbe dovuta mettere in atto già a marzo, ma che poi, a seguito degli eventi in Tunisia che poi hanno coinvolto la Libia, è stata bloccata. Hanno detto che avrebbero appunto messo a punto questa Costituzione, una Costituzione che è da 4 anni che si sta portando avanti, almeno dal 2007, e che avrebbe avuto una sua attuazione finale. Una Costituzione moderna che riprende anche molti punti della stessa forma della Costituzione, sono di tipo occidentale, che però non prevedono il cambio del sistema politico basato sulla democrazia diretta. Quindi sarà una sorta di forma ibrida che però prevede anche l'allargamento del diritto di stampa, diritti civili, diritti umani, garanzia sul diritto penale. Queste sono chiaramente parole che devono essere messe in atto, però questa messa in atto sarà solo fatta alla fine del conflitto sul territorio. Grazie, dunque, questa è la situazione in Libia, e grazie a Cristiano Tinazzi. Adesso invece ci spostiamo, andiamo in Costa d'Avorio, perché ci sono voluti 5 mesi per portare il presidente eletto nel palazzo presidenziale. Gigi Donelli. Sì, 5 mesi e la fine di una storia durata 11 anni, quella di Gbagbo, dunque di Laurent Gbagbo, 65 anni, sindacalista, professore, che nasce da una famiglia di umili origini e si afferma in qualche modo negli anni come il principale rivale della Françafrique, di quella costruzione che è proprio politica, culturale, che lega naturalmente il periodo coloniale all'Africa di oggi. Beh, Gbagbo è stato letteralmente stanato dai soldati, quindi ivoriani, ma soprattutto dalle forze speciali francesi, che poi l'hanno consegnato all'ONU. E naturalmente il grosso interrogativo oggi è che cosa accadrà, nel senso che, risolto, diciamo, almeno in apparenza, il la questione del legittimo titolare del palazzo presidenziale e rimane di fatto un paese spaccato in due. La speranza appunto che le cose non degenerino in un paese che, ricordo, visto che siamo nel periodo prepasquale, è un paese che vive di esportazioni di cacao, oltre il 40% di fatto del PIL ivoriano è sulle esportazioni del cacao. Almeno la buona notizia è che potrebbe essere l'inizio della ripresa anche economica di questo paese. Un altro scenario questo, Gigi, dove la Francia è assolutamente protagonista anche dal punto di vista proprio operativo, anche se non solitaria, questo scenario della Costa d'Avorio. Assolutamente, la Francia in queste settimane, come dire, sembra per certi versi ritornata al ruolo di gendarme dell'Africa, almeno in Africa occidentale, non solitario, perché uno dei primi commenti, per esempio, positivi, insomma soddisfatti di quanto accaduto ad Abidjan, è stato di Hillary Clinton. Quindi gli Stati Uniti hanno sempre appoggiato in un silenzio discreto le scelte francesi, che hanno quindi rotto gli indugi da qualche settimana. Ancora una volta probabilmente una scommessa per Sarkozy, si tratterà di vedere nei prossimi giorni se sarà pace. La scommessa sarà vinta se il paese esploderà ancora in violenza e sangue, allora ritorneremo a parlarne. Grazie Gigi Donelli. Adesso cambiamo decisamente pagina, parliamo di economia, perché la Fiat ha annunciato di essere salita dal 25 al 30% di Chrysler. La stessa Fiat ha dato questa notizia dicendo che si tratta della realizzazione della seconda tappa degli accordi con Chrysler. Ne parliamo con Andrea Malan. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, tutto normale nella scalata, se vogliamo così dire, di Fiat rispetto a Chrysler e nelle tappe di avvicinamento del grande accordo che si sta realizzando? Questa tappa era attesa, lo aveva annunciato già ieri Sergio Marchionne Palocco. In realtà c'è una modifica nella condizione che è stata raggiunta perché Fiat possa salire al 30%, e in particolare, mentre in precedenza la condizione era che ci fosse un accordo di distribuzione in America Latina con il 90% dei deal, questo si è rivelato troppo complicato e quindi è stato ridefinito aggiungendo un accordo di distribuzione di prodotti Chrysler anche in Europa e un eventuale compenso alla Chrysler per l'utilizzo di tecnologia americana nei prodotti Fiat, che è da definire, da verificare. In ogni caso il passo è stato compiuto. Quello successivo, fino al 35%, sempre gratuito, si avrà quando sulle strade americane sarà omologato un veicolo Chrysler con tecnologia italiana in grado di fare circa 14 km con un litro, quindi molto per gli standard americani, e questo dovrebbe succedere entro fine anno. Già prima, inoltre, se Chrysler rimborserà i debiti con il governo americano e canadese, la Fiat avrà la possibilità, acquistando stavolta, quindi pagando le azioni, di comprare un altro 16%, conquistando quindi la maggioranza, il 51% di Chrysler, e aprendo la strada a un'eventuale successiva fusione. Questi sono più o meno i passi, quindi se tutto andrà secondo i desideri di Marchionne e i suoi auspici, il tutto, almeno fino all'aumento al 51%, potrebbe verificarsi già entro la fine di quest'anno. Grazie Andrea Malan per questa pagina su Fiat. Intanto, ahimè, vanno avanti i prezzi dei carburanti, non si ferma la corsa di queste settimane, nuovi record almeno in Italia. La benzina ha toccato quota 1,59 euro per due diverse compagnie, mentre il diesel ha superato la soglia di 1,5 euro con un rialzo di 8 millesimi in un solo giorno. Adesso siamo in chiusura, vogliamo parlare di due grandi artisti della musica italiana, Vasco Rossi e Ligabue. Ci sarebbe una rivalità tra i due, almeno a quello che risulta da un post messo su Facebook dal grande Blasco, però potrebbe anche trattarsi di una bufala. Questa è una grande rivalità, forse solo l'ultima di una serie, sentiamo. Su rivalità vere o presunte a livello internazionale come tra Beatles e Rolling Stone, tra Spandau Ballet e Duran Duran, o di casa nostra come tra Gianni Morandi e Claudio Villa o tra Mina e Milva, un tempo si riempivano solo le pagine dei giornali. Oggi a metterci lo zampino ci pensano anche i social network come Facebook. In un post attribuito a Vasco Rossi ma smentito dal suo ufficio stampa, il rocker di Zocca domenica sera avrebbe attaccato così a sorpresa il collega di Correggio Luciano Ligabue. Caro Liga, quando avrai scritto anche tu quasi 200 100 canzoni e avrei pubblicato 16 album inediti, potrei essere messo sul mio stesso piano. Devi mangiare ancora un po' di polenta prima di poterti confrontare con me. La notizia ha creato sconcerto tra gli iscritti a Facebook, scatenando più di 700 commenti in poche ore. Forse si è trattato di uno scherzo, ma non si sa ancora esattamente chi è stato. Di certo, tra i due rockers, entrambi emiliani, in passato ci sono state alcune incomprensioni, chiarite però nel tempo. E sul presunto dualismo si era già espresso infastidito lo stesso Ligabue. Continuo a pensare che siamo due persone diverse, che fanno musica diversa, con sensibilità e attitudini diverse, e soprattutto lui ha 10 anni di carriera più di me, se vogliamo dirla tutta. E per dirla invece con l'ultimo disco di Blasco... Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Liga potrebbe però rispondergli a sua volta. A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Niente paura. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E così chiudiamo questa edizione di GR24 alle 13:28 minuti in punto. È tutto. Alessio Maurizio in studio, Pietro La Corte in regia. Vi augurano buona giornata. Vi lasciamo prima alla borsa e poi all'Italia in controluce. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.